ogni tuo, ovunque e sempre, in ogni oblio, in ogni presente di tuo respiro, di tua pelle, dentro di te io vedo stelle. E il sole fa ballare anche la luna. Quando arrivi la mattina fiera divina, con poche parole, tanto amore, sai dare luce alle finestre del mio cuore. Del mio, in ogni mio trovo del tuo. Baciarti è come un treno che dalla terra arriva al cielo. E il sole fa ballare anche la luna. Quando arrivi la mattina fiera divina, con poche parole, tanto amore, sai dare luce alle finestre del mio cuore. In ogni tuo mi specchio, anima vedo, leggero rossetto. Le tue farfalle disegnano arcipelaghi di carezze. In ogni tuo voglio invecchiare, in ogni tuo mio grande amore. E il sole fa ballare anche la luna. Quando arrivi la mattina fiera divina, con poche parole, tanto amore, sai dare luce alle finestre del mio cuore. E il sole fa ballare anche la luna. Quando arrivi la mattina fiera divina, con poche parole, tanto amore, sai dare luce alle finestre del mio cuore.